Siamo in collegamento con Paolo Ambrosini, presidente di AliConfCommercio, l'associazione dei librai italiani. E innanzitutto, ciao. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Siamo in collegamento per parlare dei tagli che sarebbero previsti nella manovra per quanto riguarda la cultura. Allora, innanzitutto Di Maio, più o meno un mese fa, aveva garantito che non ci sarebbero stati tagli per quanto riguarda istruzione, sanità e cultura, appunto. È stato vero poi questo? Purtroppo adesso noi guardiamo al nostro ombelico, quindi al mondo della cultura e al mondo delle imprese librarie. Purtroppo in manovra sono previsti dei tagli per quanto riguarda quella misura che è stata istituita quest'anno, che è il credito fiscale per le aziende librarie, che è un credito che le aziende possono utilizzare a fronte di alcune spese che nel corso dell'esercizio devono affrontare. Queste spese le danno la possibilità di concorrere a questa sorta di gara pubblica con la quale tu dichiari che hai speso tot per affitto, tasse, contributi dipendenti, eccetera, e in virtù di quello ti viene riconosciuto un bonus fiscale da scaricare sull'S24 che devi pagare, quindi sulle tasse, piuttosto che sulle voci, diciamo, che normalmente girano su quello strumento. È una misura che è nata con la logica di sostenere le aziende librarie in un momento particolarmente difficile della loro vicenda storica, perché le librerie, come ben sapete, fanno un po' fatica a restare aperte, vuoi per la concorrenza, ma vuoi anche per la scarsa propensione alla lettura dei nostri cittadini, di noi tutti italiani, tant'è che ci sono circa 13 milioni di italiani che non hanno neanche una libreria sotto casa. E quindi l'idea era quella di dare un sostegno alle librerie per riportarle, soprattutto nei territori laddove non ci sono. Questo perché? Perché quando si entra in libreria si trova un mondo, che è il mondo che la libreria è in grado di offrire, che nessun altro operatore economico che vende i libri è in grado di proporre. Ed è quel mondo dato da tutta l'offerta editoriale che è in continuo divenire, quindi probabilmente a molti di voi sarà capitato di entrare in libreria con un'idea e di uscire con un altro libro completamente diverso. Questo è il valore, la forza delle librerie, oltre al fatto che in libreria si trova sempre un personale preparato e competente in grado anche di aiutarti nei tuoi percorsi di lettura. Tutto questo è a rischio, diciamo, nel paese in generale. Non è che adesso questo taglio, diciamo, sia quello che farà chiudere tutte le librerie italiane, però chiaramente è un preciso segnale che ci viene detto che per la cultura non c'è più spazio, che quindi dobbiamo un po' comprimere, diciamo, le risorse a disposizione per le attività culturali per far spazio ad altre cose. Sono delle precise scelte politiche che io chiaramente non condivido, non le condivido né da imprenditore ma neanche da cittadino, non ne faccio mistero, tant'è che l'ho dichiarato anche su una recente intervista su Repubblica. Per quanto riguarda i tagli, eventualmente colpirebbero di più le piccole librerie o anche i grandi monopoli, nel senso che qualche anno Allora, fa. quel tipo di provvedimento di misura era stata proprio pensata per sostenere la libreria diffusa, cioè la presenza delle librerie anche nei territori di provincia. Tant'è che le agevolazioni, per come è stato costruito il provvedimento, vanno prima alle librerie uniche in un comune, quindi nella graduatoria che viene stilata per questo tax credit, prima le risorse andranno e vanno a quelle librerie che sono le uniche presenti in un territorio comunale. Poi vengono distribuite in base ai livelli di fatturato, per cui è chiaro che la misura andrà a colpire principalmente le piccole librerie, perché sono quelle che più in realtà avrebbero bisogno di un sostegno e sono anche quelle che più fanno fatica oggi ad essere presenti nei nostri territori, perché in Italia c'è una situazione di mercato che di fatto, io la chiamo un controllo sistemico del mercato da parte dei gruppi editoriali, che non significa che sono loro che hanno in mano tutte le aziende, però di fatto sono loro che giostrano un po' quello che sta succedendo nel nostro mercato editoriale. Rompere questo controllo sistemico sarebbe nell'interesse un po' di tutti, soprattutto nell'interesse di chi ama la lettura, perché se si rompe un controllo sistemico è chiaro che i libri seguiranno altre strade, altri percorsi, si troveranno libri che rispondono anche ad altri indirizzi culturali piuttosto che. E quindi diciamo che il rischio del controllo sistemico è che in due o tre decidano cosa si pubblica, cosa si distribuisce, dove ci devono essere le librerie, dove devono arrivare i libri. Questo è quello che abbiamo di fronte, chiaramente in uno scenario apocalittico, non è ancora oggi così, c'è ancora tempo per intervenire, però i segnali ci sono tutti. Voi come associazione vi siete già, insomma, avete. Abbiamo già scritto, ci siamo già esposti, come avete visto, su Repubblica, abbiamo già scritto la lettera al ministro. Ministro, al Presidente di Commissione Cultura, le stiamo inviando a tutti i contatti istituzionali che possono un attimino rivedere queste scelte. Non è solo il credito fiscale alle librerie, nell'occhio tra virgolette del ciclone per quanto ci riguarda, c'è anche la parte di riduzione del bonus dei diciottenni, che è una misura che sappiamo che il Ministro Bonisoli, fin da quando ha assunto il suo ruolo, ha detto di voler modificare, di cambiare. Cambiare non significa però, a casa mia, non significa ridurne la dotazione, cambiarla significa stabilire nuove modalità per accedere a quel beneficio, a quello strumento. Qui invece cosa hanno fatto? Hanno fatto un taglio molto ragionieristico, hanno detto siccome la cifra stanziata non viene tutta utilizzata, perché non tutti i diciottenni colgono questa opportunità, invece di spingerli ad utilizzare la cifra, trovare un modo per far sì che tutti i diciottenni, tutti gli aventi diritto beneficino di questa cifra, che ricordo copre i libri, ma i consumi culturali in generale, quindi il teatro, la musica, tutte quelle che sono le attività che possono arricchire anche una mente in costruzione, una giovane che deve crescere anche con degli strumenti culturali. Quindi il fatto che si dica, siccome tu non li hai utilizzati, sai che c'è, invece di darti un'altra opportunità o di trovare il modo per portarti dentro nel mondo della cultura, dicono allora a questo punto li tolgo, tu sei un caso disperato, non mi interessa darti questa opportunità, quindi tagliamo questa cifra e tu non hai voluto beneficiarne e non ne beneficerai neanche più, che è un concetto un po' contro allo spirito dello strumento in sé. E poi c'è l'altro grande tema, che sono gli investimenti nella scuola, nell'istruzione. Sinceramente come cittadino ho molto colpito quello, come operatore chiaramente quelli che riguardano il mondo, ma come cittadino, come genitore di 3 ragazzi, 2 oggi all'università e 1 al liceo, la cosa è un segnale che si dà chiaro, si dice che la scuola, che l'istruzione sono delle cose eventuali, non sono delle cose prioritarie nelle attività delle nostre istituzioni pubbliche. Invece secondo me, ma qui parlo proprio da genitore, non da operatore del settore, la scuola è un punto fondamentale sulla quale polarizzare gli interventi, perché è da lì che può passare il vero cambiamento. Il cambiamento non si costruisce se non attraverso gli strumenti culturali e formativi, solo così si crea un vero cambiamento, non ci sono altre modalità secondo me. Questo è un punto di vista di un privato cittadino che però ritiene di aver comunque un osservatorio privilegiato oggi, perché quello che noi vediamo avvenire in libreria tutto attorno a quello che creiamo con la libreria tra eventi culturali eccetera eccetera, ci fa capire che quando un ragazzo, che quando un giovane entra nel mondo del libro, trova degli stimoli, trova delle opportunità che lo aiutano tantissimo poi a diventare uomo, a diventare uomo e donna, a diventare quello che un domani sarà, quello che schiaccerà le leve del potere, potere economico, potere sociale. E invece noi a questi ragazzi diciamo guarda, studiare non è importante, meglio se fai il furbo e freghi, rubi, fai le case, tanto c'è il condono. Se invece di pagare le tasse, fammi pagare, tanto dopo ti arriva il condono, eccetera, eccetera. Se sono questi i messaggi che noi diamo ai nostri ragazzi, è chiaro che ci sarà qualcuno che gli mangerà i nostri figli in occhio in testa, come diciamo noi, che sono tutti quegli immigrati che invece si stanno veramente, c'è una parte della popolazione immigrata che sta investendo moltissimo nella formazione e nell'istruzione dei propri figli e che un domani saranno quelli che andranno avanti per noi. I nostri gli abbiamo dato un messaggio altro. Io quest'estate ho avuto nell'alternanza scuola-lavoro, ho avuto dei ragazzi del liceo, vi devo dire che tra tutti quelli che sono venuti mi hanno molto colpito 2 ragazzi extracomunitari, ma veramente persone educatissime, preparatissime e in grado di inserirsi già nel mondo del lavoro. Altri invece, figli anche magari della buona società, forse bisognerebbe fargli prima un corso prima di mandarli in azienda, perché se questi un domani arrivano in azienda, se vengono da me, io non li riceverò mai persone così, perché ritengo che nel mondo del lavoro ci vuole il rispetto dei propri compiti, dei propri ruoli, ci vuole anche la capacità dell'adattarsi a quello che è il mondo del lavoro, quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro, quelle che sono le esigenze delle attività lavorative. Se invece uno arriva con la presunzione di saper tutto, siccome è figlio di, ragazzi, questi non faranno strada. E proprio sul tema del mondo del lavoro, un'ultima domanda lampo, diciamo, perché abbiamo quasi esaurito il tempo, ma questi tagli eventualmente nella manovra potrebbero avere un impatto anche sul numero di impiegati all'interno del settore delle librerie e dell'editoria? Beh, è chiaro, cioè già il fatto di aver frenato per quest'anno l'utilizzo della carta 18 sta avendo delle ripercussioni sul mercato. Se adesso torniamo ai numeri, noi vediamo che diversamente dall'anno scorso, quest'anno il mercato del libro sta tornando a perdere e questo è già un elemento di preoccupazione. Consideri poi che alcune librerie, alcuni librai hanno comunque deciso di non chiudere la propria attività proprio in virtù di questo credito fiscale, degli strumenti come carta docente, app 18, che hanno riportato un po' di, io ho detto, ossigeno in libreria, un po' di aria fresca che ce n'era bisogno. Se ora questi strumenti li togliamo, è chiaro che qualcuno farà delle scelte, ma è gioco forza, perché l'economia si regge su un dare e avere. Quando questo valore non si chiude in maniera positiva, l'imprenditore può resistere un anno, può resistere due, ma credo che poi non vi sia motivo per cui continui a resistere, insomma, e quindi chiuderà e con lui se ne andrà sia dei fari di distribuzione di libro nei territori, perché ricordiamoci, quando c'è una libreria, quello che produce quella libreria non viene mai recuperato dagli altri operatori presenti nel territorio, perché ogni libreria ha una sua storia di clientela, di capacità di vendita che non può essere replicata. Noi non siamo dei soggetti replicabili, i librai non sono dei soggetti replicabili, per cui se a me piace l'autore X, propongo l'autore X e lo venderò e produrrò un certo tipo di risultato nel tempo con la mia clientela che mi seguirà eccetera eccetera. Se io dovessi chiudere, quell'autore probabilmente non troverebbe più un suo promotore, un suo manico, un suo diciamo diffusore, o c'è la capacità di un collega che subentra di costruire altre relazioni con altri clienti, che poi dovrà riuscire a entrare in sintonia con gli interessi dei clienti. Non è semplice, ci vuole tempo, ci vuole pazienza e solo con un lavoro molto lungo qualcosa si andrà a recuperare, ma mai il 100%. Questo proprio ce lo dicono studi, ricerche, sono anni che queste cose sono mappate e che ci dimostrano questo. Quindi è chiaro che se chiude una libreria c'è una perdita economica, c'è una perdita di promozione della lettura, e sono questi due i valori che sono in campo. Indubbiamente il valore economico è un valore importante perché è quello che viene normalmente misurato, però c'è l'altro valore importantissimo che è quello della diffusione dei saperi, che in parte oggi passano anche grazie al lavoro quotidiano delle librerie. Quando si spegne una libreria si spegne un diffusore di questi saperi e non è così semplice poi replicarlo, ritrovarlo e riaccendere questi fari, non è così semplice. Perfetto, io la ringrazio molto e la saluto. Grazie a voi.